Avete mai letto Pinocchio? Avete mai letto Pinocchio? Oh, Pinocchio, avete mai letto Pinocchio? Giovanotti. Oh! E io Pinocchio lo sapevo a memoria quando ero piccolino, cioè i dischi di Pinocchio li sapevo a memoria, potevo dirli da prima all'ultimo a memoria. Secondo voi il figlio il prodigo, questo un po', a chi assomiglia? C'è un personaggio di Pinocchio che assomiglia un po' al figlio il prodigo o no? Chi è? Chi è? Bravo. Dillo un po' forte. Lucignolo io ho sentito, o no? Lucignolo, quello che dice, andiamo al paese dei balocchi, che qua tutta vita, lascia perdere la scuola, abbecedario, tu padre, tu madre, lasciali verde, qua dobbiamo andare a fare un po' di vita, ok? E che fine fanno al paese dei balocchi? Gli vengono le orecchie da somaro e poi diventano somari e vengono venduti come somari. Che fine fa il figlio il prodigo? Non è diventato un somaro, però che lavoro si era ridotto a fare? Il mandriano dei porci, ma voi l'avete mai visto i maialini? Noi al seminario, quando stavamo in seminario, io ogni tanto mi andavo a vedere sto maiale, che ho capito perché alcune regioni non se lo mangiano con lo consigliano. Avete mai visto cosa fa un maialino? Ma proprio non sozzone, maialino non sozzone, cioè è proprio non sozzone. L'avete mai visto quando mangia un maiale? Che fa? Butta, allora io ho visto, non lo so, stavo proprio a guardare, gli portavano sti bidoni di avanzi di casa dentro la rolla, sai che fanno qui? Ci mettono le zampe dentro, dopodiché schiaffano la capoccia dentro e si fa, e poi ogni tanto alzano la testa per... È uno spettacolo proprio, cioè io che sono nato in città non avevo mai visto queste cose, quindi ogni tanto ne uscivo e me li guardavo, dico, ma tu guarda un po', sono un riciclatore naturale, perché voi sapete, in tempo se mangiavano tutti gli avanzi, poi l'ammazzavi, te lo rimagnavi un'altra volta e così non sprecavi niente, no? Comunque, a prescindere da queste notazioni, insomma, andare a fare il guardiano dei porci, no, ma non è che è proprio il top, no? Questo poi sta a morire di fame, nessuno è andato a mangiare, ma quasi quasi famo un pranzetto con i maiali, famo un po' di ghiande per uno, così dice, ha detto nel Vangelo, dice, volevano saziarsi con le ghiande dei porci, ma manco gliele davano, non lo facevano, fa manco, capito, manco invitato alla cenetta di un maiale. Allora, com'è questa storia? E a un certo punto dice, ma io sono scemo, ma a me come fa a essere ridotto così? Ma se torno a casa, mio padre, gli dico, vabbè, senti, io non posso manco più guardare in faccia perché ho sputato sopra tutte le cose belle che c'hai, guarda, trattami come l'ultimo dei servi, me ne vado alle cucine, basta che magari piatto di minestra me lo dai, perché insomma essere finito con i porci e con le ghiande non è proprio il top. Allora ragazzi, aveva fatto una bella pensata andassero lontano dalla casa del padre. Ma attenzione, che sia lui che il fratello maggiore sono viziati da uno stesso problema. Questo è un po' difficile, chi lo sa se i grandi ci arrivano. Sia quello piccolo che sembra cattivo, che quello grande che sembra buono, però vi piace quello grande che vede tornare quel disgraziato e dice, ah, che ti sei messo a fare la festa con questo? Io sono tanti anni che sto qua, non hai fatto mai niente per me. E si arrabbia. Vi piace questo qua? È una bella persona? È simpatico, ma secondo lui questo qua, questo più grande, era contento di essere rimasto a casa del padre, oppure qui non si possono dire parolacce, capito? Stava sempre a pensare che pizza, cioè pensava pure lui che era una pizza stare dentro una casa del padre, solo che non c'ha avuto il coraggio di andarsene. Siete d'accordo? Vi sembra un po' così o no? A me sembra un po' così. Questo pensava come quello più piccolo, solo che c'hai avuto paura, perché a volte bisogna essere pure un po' coerenti, capito? Se pensi che so due scatole, vattene, d'accordo? Va a vedere se è vero che fuori dalla casa di tuo padre c'è la vita. Quello almeno ci ha provato, quello è rimasto dentro, ma sono tanti anni che ti servo e non ho trasgredito un solo tuo comando. E tu non hai mai dato un... Allora... Chi di voi ci arriva? Quale idea hanno tutti e due del padre? Secondo voi, tutti e due lo conoscevano bene il padre? Si rendevano conto di che cosa significava abitare? Questo era un padre ricco, con un sacco di cose. Si rendevano conto di quanto erano privilegiati ad avere un padre così buono? Tutte e due, eh? Lo dico io, cioè, è evidente dal Vangelo. No! Adesso siamo quasi, adesso tiriamo le conclusioni, eh? Ma secondo voi c'è un figlio non menzionato qui dentro? C'era un mio vecchio padre spirituale che, sapete, a un certo punto Gesù fa un'altra paraboletta, no? Abbiamo quasi finito, ascoltatemi bene, no? Dice, c'era un uomo che aveva due figli, a uno gli disse, vai a lavorare la vigna, quello gli disse, no, non ci vado, poi però si pente e va a lavorare. A un altro gli dice, va a lavorare la vigna, questo gli dice, sì, vado subito, ma poi non ci andò. Secondo voi, chi è che ha fatto quello che voleva il padre, il primo o il secondo? Quello che ha detto no e poi è andato, o quello che ha detto sì e poi non è andato? Che dite? Il primo, giusto. Però c'era mio vecchio padre spirituale nel seminario, padre Urbano Navarrete, poi è diventato cardinale, adesso è passato a miglior vita, che mi diceva, siccome io assomigliavo un po' al primo, cioè io so che quello che dice, subito di no, poi si pente e ci ripensa. Dice, mi diceva, guarda Leonardo, c'è un terzo figlio che dice sì e poi va. Quindi non è necessario per forza dire no e poi vado, o dire sì e non andare. Si può anche dire sì e andare. Così qui c'è un figlio non menzionato. Sapete qual è il figlio? È un figlio che rimane nella casa del padre, ma tutto contento, grato, dice, ma io non c'ho più parole per ringraziare Dio, perché qua sto così bene che io non mi cambierei sta vita con nessun'altra. Ok, non è menzionato, però questo dovrebbe essere il figlio che sta con il padre. Allora facciamo un pochino di esempi, 2 minuti di esempi e poi chiudiamo. Chi è il primo figlio? Applichiamolo chiaramente alla vita cristiana, quelli che stare con il Signore, andare a messa, andare a catechismo per voi piccolini, pregare, è una cosa bella, oppure pizza, cavallo per forza, perché se no non più la comunione, non più la cresima, se no mia madre e mio padre me, che dicono che ci devono, no, cannacce per forza, è una pizza? Punto interrogativo. Oppure, e quindi molti amici vostri, vedete quanti ragazzi di 14, 15, 16 anni vedete qua in giro, quanti ce ne stanno? Io non ne vedo nessuno. Secondo voi quelli qualche anno fa stavano seduti dove state voi, poco, meno, detto fra me e voi, ma l'hanno fatto il catechismo secondo voi? Hanno fatto la comunione? Hanno fatto la cresima? E in modo stanno? Stanno in giro per sermone? Oppure da qualche parte? Come mai secondo voi? Perché a un certo punto hanno pensato, due scatole, e poi che hanno appresso al prete, hanno messa la domenica, dormo, d'accordo? Al sabato sera lo fa tardi, c'ho amici, c'ho altre cose a cui pensare, a pregare, come tu metti a pregare, ma ci stanno i videogiochi, ma ci stanno le scampagnate, due scatole, attenzione, quindi, facile pensare questo qui. O poi ci stanno quelli che rimangono, ma voi conoscete un pochino di gente che magari va pure un po' in chiesa, no? Però se tu li guardi dici, ma questo è così contento di essere figlio di Dio? Così contento di andare in chiesa, cioè uno che proprio quando tu lo incontri dici, ma guarda questo che bella persona, quanto è felice, dici, ma che è successo? Dimmelo pure a me che c'hai, che voglio diventare felice come te. Allora, ci sono molti che continuano a frequentare la casa del padre, ma un po' perché so, un po' la tradizione, mi ha imparato mio padre, mi ha insegnato mio padre, mia madre, e quindi continuo ad andare, poi meglio andare perché se sa mai, dovesse esistere qualcosa, magari forse l'inferno esiste, che chi lo sa, probabilmente no, ma se dovesse esiste, cioè fammi pagare un po' dei conti con nostro Signore in modo tale che più o meno mi metta a posto la coscienza, però meno ci sto e meglio è, quindi lo stretto è indispensabile, quindi forse la messa ogni tanto magari, che ha capito, la confessione una volta ogni 3, 4, 5 anni, dopo 10 magari, insomma, no? Ma niente di più, perché dopo se no mi dovessi andare troppo a compromettere. È bella una cosa così. Ma te fa venire la voglia di andare alla casa del padre? Invece se tu vedi uno che è tutto contento, tutto felice, capito? Che è contento, capito? Che ti viene voglia, no? Allora, la domanda che dobbiamo farci noi oggi, tutti quanti, anche io, che idea ci siamo fatti di Dio? Punto interrogativo. Che idea ci siamo fatti dello stare con Lui? Che idea ci siamo fatti dello stare nella sua casa? Durante la veglia di Pasqua, ma dopo vi do un po' di belle notizie dopo la comunione, rinnoveremo le promesse battesimali. Quando si fa quella cosa, uno dovrebbe, che se potesse, sapete, c'era un santo che era San Giuseppe da Copertino, che quando lievitava, volava, andava in estasi. Noi quando si rinnovano le promesse del battesimale la notte di Pasqua, dovremmo andare in estasi tutti quanti, capito? Tutti in estasi. Ma quanto sono stato fortunato che io ho avuto la grazia di essere battezzato, che sono un figlio di Dio, posso fare la comunione. Se questo non c'è, dobbiamo chiederci un po' che idea di Dio ci portiamo dietro. E quindi l'ho conosciuto adeguatamente il Signore, cioè penso che sia una cosa noiosa o un padrone esigente, oppure è un padre che mi ricolma la vita di beni e che è il segreto della felicità, il figlio non menzionato, quello che è sottinteso. Bene, ci portiamo questa domanda e ciascuno di noi si dia una risposta, e in base alla risposta chiaramente agisca di conseguenza, perché il figlio scapestrato ha da ritorno a casa, il figlio che stava a casa deve cambiare modo di pensare, il figlio che stava bene a casa continua a starci sempre meglio, e ogni giorno sarà più bello del precedente, perché con Dio così è. Siano lodati Gesù e Maria.